Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Eccoci, 17.06 in diretta, vi ripeto subito il numero verde 800 24 00 24, se volete intervenire sms e whatsapp 349 238 6666, siamo qui fino alle 19, vi aspetto. Oggi parliamo molto di VAR, ma poi parliamo anche di tante altre cose. Cominciamo con la bussola della domenica, questa sera alle 20.45 c'è il verdetto sul titolo d'inverno, c'è Roma-Juventus, con la Juventus che ha il destino nelle proprie mani dopo il pareggio di ieri a San Siro dell'Inter contro l'Atalanta. Oggi pomeriggio abbiamo vissuto sull'asse salvezza Europa League. Il verdetto del girone d'andata dice che se il campionato dovesse finire così in Serie B andrebbero Genoa, Brescia e Spal, e soprattutto le sconfitte di Brescia e Spal sono pesanti per come sono maturate, mentre il Toro, che continua a non convincere, piano piano sta risalendo verso la zona Europa League, in questo momento è settimo ed è con solo 2 punti in meno ad esempio del Cagliari che a detta di tutti ha fatto un grande girone d'andata. Ranieri piano piano sta risollevando la Sampdoria, che è +4 sul terzultimo posto. Attenzione al Sassuolo, che ha lo stesso margine, 4 punti su chi virtualmente è retrocesso, ma ha fatto soltanto 3 punti nelle ultime 7 giornate. Gioca bene De Zerbi, ma è anche ora di cominciare a fare risultati. Menù della domenica. Allora, intanto un saluto a Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. C'è anche Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Allora, abbiamo un po' di temi di cui parlare oggi. Vi annuncio anche che Varanatomy è anticipata alle 17.45, quindi segnatevelo da qualche parte, 17.45 Varanatomy con il nostro Luca Marelli. La prima cosa che vi voglio far sentire è Antonio Conte ieri sera dopo il pareggio dell'Inter con l'Atalanta. Conte che continua a essere tranquillo rispetto ad altre volte in cui l'abbiamo visto esternare in questi mesi a proposito dei problemi di rosa e del mercato, ma mi sembra che abbia lanciato un grido d'allarme chiaro su quello che si aspetta nelle prossime 2 settimane di mercato dall'Inter. Noi in questo momento non abbiamo, tra virgolette, la capacità di reggere quando ci mancano comunque quattro giocatori. Non è semplice, siamo l'Inter della classifica, però stiamo raschiando il fondo del barile, si dice a casa mia. Posso dare una mia idea, una mia interpretazione, magari poi il club può avere un'altra interpretazione. Il mio compito è quello di lavorare, cercare di far rendere al massimo i calciatori e cercare di dare delle indicazioni. Non posso obbligare nessuno. Allora, io tra ieri sera e questa mattina ho anche sentito tanti dire è il solito Conte che accampa scuse appena non vince. Invece secondo me è molto lucido e coerente anche in quello che ha detto ieri sera. Vuole giocatori, lo ripete da mesi, vuole giocatori pronti immediatamente, i nomi sono quelli che conosciamo, le trattative sono in piedi, invita l'Inter a chiudere il sacco con dentro i giocatori. Ma anche perché, non so Pier come la pensi tu, mi sembra che quando lui dice stiamo facendo qualcosa di straordinario, quei 46 punti in un girone rispetto alle situazioni che abbiamo attraversato in questi mesi, a me sembra che al di là dei suoi limiti caratteriali, ma dica la verità. Sì, dice la verità assolutamente. Sta facendo un qualcosa di straordinario, semmai si può discutere su certi investimenti, se proprio vogliamo fare, se vogliamo fare l'avvocato del diavolo, Lazzaro, faccio il primo nome che mi viene in mente, no? Cioè, forse delle cose si potevano fare meglio in sede di campagna acquisti, ma rimane uno straordinario girone d'andata, una squadra che rispetto all'anno fa ha cambiato faccia, ha cambiato pelle, si è data regole nuove, ha una disciplina nuova, diversa, e sicuramente anche per colpa di qualche infortunio di troppo, soprattutto a centrocampo, è un po' corta in certe parti. E ti aspetti che lo accontenti, no? Sì. Dietro questa risposta c'è tutto, c'è anche la volontà dell'Inter di veramente di quello che lo si può fare a gennaio. Gennaio è raramente un mercato di riparazione, non è un mercato. Però ieri io ho sentito Marotta prudente, non è un mercato povero quello di Marotta gennaio. Marotta è prudente perché è prudente come persona ed è una delle sue caratteristiche migliori, e poi certamente non ce lo viene a dire a noi se non dovesse essere prudente. A me risulta che l'Inter stia cercando di fare il massimo possibile, mi sembra che sia, da quello che leggo, da una serie di colleghi di cui mi fido e che stimo, che sia in corsa per Vidal, che sia in corsa per Eriksen, che sia in corsa per Giroud. E quindi, se più di così, francamente, in un mercato di riparazione, sì, secondo me se ne arrivano due su tre di questi, insomma, di che parliamo? Però serve soprattutto il centrocampo. Anche ieri la differenza di qualità, esatto, e di quantità, anche con l'Atalanta, non stiamo parlando della Juventus, però ieri sera si è vista nella fase centrale della partita. Secondo grande tema, la Lazio, 10 vittorie di fila. E ieri Inzaghi, per la prima volta, quando gli hanno chiesto dello scudetto... Secondo lei che cosa manca alla Lazio per essere da scudetto? Non le chiedo che cosa ha da scudetto, che cosa manca per essere da scudetto? Ma in questo momento, devo essere sincero, poco. Deve mancare quel pizzico che c'è mancato gli anni scorsi, nel senso degli infortuni, perché due anni fa abbiamo perso la Champions nell'ultima partita giocandola senza Luis Alberto e giocando all'ultima con Immobile che veniva da un mese di riposo per uno stiramento. Quindi noi dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a coinvolgere tutti, sapendo che ho bisogno dell'intera rosa, devo cercare di utilizzare tutti i giocatori sperando che tutti siano al 100%. Allora, io provo a tradurre, c'è anche un amico che ha scritto un messaggio WhatsApp: saranno le coppe a febbraio e marzo a decidere se la Lazio può correre per lo scudetto. Lazio che non ha niente, non ha le coppe, quindi appunto, è un vantaggio. Se vuol dire che se Inter e Juve dovessero andare avanti, la Juve deve andare avanti a tutti i costi, l'Inter vedremo come affronta l'Europa League, e in realtà la Lazio diventa competitiva per definizione. Secondo me quello che ha detto Inzaghi ieri, facendo il parallelo con le ultime due stagioni nel girone di ritorno, è: nei primi 14 noi siamo da scudetto. Beh, siete d'accordo? Sì, ha ragione. Assolutamente. Ha ragione, nei primi 14 la Lazio è da scudetto, il problema è che lo scudetto molto difficilmente riesce a vincere in 14, quindi è ovvio che adesso stanno benissimo, hanno anche fortuna perché ieri hanno vinto anche con fortuna e non è la prima volta, e però insomma voi mi dite che Lotito non metterà le mani al portafoglio, sarebbe un peccato in questo momento data la contingenza e le congiunzioni. Pier? No, io non dico che non metterà invece le mani al portafoglio. Secondo me questa squadra è difficilmente migliorabile, perché secondo me negli 11 forse è ancora più forte rispetto, almeno in questo periodo, è ancora più forte secondo me negli 11 anche dell'Inter in questo momento, poi magari non lo sarà per 38 partite. Siamo lì, è chiaro che la Lazio ha avuto rispetto all'Inter e alla Juve meno problemi di infortuni, meno emergenze. Sicuramente in queste 10 partite vinte c'è tutta una serie, questo che fa anche ieri sera su DAZN, c'è sicuramente anche qualche partita che è girata bene. Sì, ieri non meritava di vincere la Lazio, ma poi sì, si vincono anche le partite così. Di vincere. Però poi quando per 10 partite consecutive, su queste 10 vittorie, diciamo che c'erano state 4 larghe su queste 10, no? E le altre sono arrivate invece negli ultimi minuti, questo secondo me è un ulteriore elemento di forza. È un valore. Ma certo. Perché vuol dire che ti sei trovato più rispetto alle altre squadre, ti sei già raffrontato con la complicazione, con la difficoltà, con la fatica, con la paura di non vincere, e te la sei sempre cavata. Quindi secondo me è un'ulteriore sottolineatura della forza di questa squadra, e fammi dire, di questo allenatore. Come nel caso del Napoli, non è un alibi, ma è un aggravante il fatto che gli ultimi 4 gol di fatto se li sia segnati da soli. Ieri ci ha pensato Spina con l'Inter, che pure aveva meritato di vincere. Sul Napoli fammi dire una cosa. No, aspetta, ci andiamo dopo, aspetta. Vai. Un attimo, perché siamo quasi col traffico. Io voglio darvi il terzo argomento, che poi è quello che già sta scaldando gli amici da casa. 800 24 00 24, per intervenire in diretta, 349 238 6666. Scrive Saverio da Milano: se il VAR non serve a sanare errori come quello relativo alla trattenuta di Lautaro, francamente non ho capito dopo 2 anni e mezzo a cosa serve il VAR. Condivido, ma non solo per ieri sera, anche per altri episodi che abbiamo visto e commentato oggi. Allora, c'è la questione arbitrale. Io definisco gravissimo l'errore di Errati, soprattutto, e di Rocchi ieri a San Siro, al di là dei tentativi di camuffarlo per interessi di parte che ho letto oggi, soprattutto insomma da parte di chi va in curva prima di scrivere. Allora, il VAR così non serve, sta diventando un'arma di distruzione della fiducia. Io non so cosa ne pensi tu, Pier. Io allora innanzitutto lo dico a beneficio di chi... Io spesso mi capitano queste cose in telecronaca, quindi questo è fantastico. Sì, devo dire, sono tutti bravissimi a fare telecronisti seduti sul divano di casa. Sono la persona più serena del mondo. Allora, ti posso dire che ieri sera si dividevano in quelli che dicevano che avevo detto troppo poco che era rigore, pur avendo detto che era rigore, e quelli che invece dicevano che avevo detto troppo, cioè questo è un classico, no? Ma sai che ci sono anche pseudo colleghi che stanno lì nascosti dietro la siepe a prendere nota. Questo è veramente secondario. Io lo dico perché la penso così, non vedo nessun vento, cioè non vedo nessuna direzione precisa in un senso piuttosto che un altro. È proprio una questione di varia di arbitrale, certo, una volta parliamo di niente, quindi però questo però secondo me è un elemento, no? Cioè io non vedo nessuna dietrologia, nessun palazzo che si sta muovendo. Vedo tantissimi errori e soprattutto vedo, come immaginavo 2 anni e mezzo fa, mi ricordo la telefonata in treno a tutti i convocati ad agosto, alla prima giornata di campionato, che l'asticella si è alzata. Cioè un errore come quello di ieri è un errore che in una situazione normale, 2 anni fa, 3 anni accetti. Fa, avremmo definito, e non è semplicissimo, ci sono 1000 gambe, ci sono 4 cose, ci sta un braccio, uno per terra, forse lo spingono, forse quello ha spinto uno che ha spinto un altro, tutta roba che onestamente a velocità reale, ve lo dico da telecronista, che quindi è la cosa più simile all'arbitro, no? Perché è uno che comunque viene chiamato subito senza rete a dover dire quello che vede, chiaramente con meno responsabilità rispetto all'arbitro, quella roba lì, se non ci fosse il VAR sarebbe normale, però il VAR c'è, usiamolo. Aspetta, magari decidiamo come dicono poi adesso sentiamo Marelli, come dicono gli interisti o alcuni interisti in queste ore, che c'è stata una spinta, ma usiamolo, andiamolo a vedere e diamo la percezione alle persone a casa che lo andiamo a vedere anche a costo di perdere 5 minuti in più. Andiamo a cena mezz'ora sono dopo. Perfettamente d'accordo con te, Pier. Comunque aspettiamo la gente. 800 24 00 24, 17:45 VAR Anatomy con Luca Marelli. Dico così, anticipo, perché su questa cosa saremo rigorosissimi oggi, siccome parleremo molto di quell'errore lì, perché è un errore grave, importante, che ha condizionato la partita. A tutti quelli che ma avevate finito i giga, non ne parlavate quando toccava la Juventus, andatevi a scaricare il podcast della puntata di VAR Anatomy del 24 novembre scorso, Atalanta-Juventus, sugli errori di Rocchi in Atalanta-Juventus, adesso che siete lì a prendere appunti, così evitate di scrivere sciocchezze sui social. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24, 800 24 00 24, tutti convocati. Convocati. Oggi io non posso non essere comunque contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Io l'unica cosa, ecco, che non vorrei che il primo posto in classifica così facesse adagiare e chiudere gli occhi, perché gli occhi devono essere ben aperti e stare allerta. Allora, la mia impressione, ieri per Luigi Pardo era San Siro a fare Inter-Atalanta, è che non perdere contro l'Atalanta di ieri sera sia già stata una mezza impresa per l'Inter, possibile solo se tu hai una squadra solida e organizzata come è l'Inter di quest'anno e quindi comunque in qualche modo in grado di reggere l'urto. Atalanta in questo momento è una squadra fantastica, non so Pier cosa ne pensi tu. Sì, Atalanta è una squadra fantastica. Allora, mentre sentivo questa parola di Conte, pensavo che mi piacerebbe un giorno lavorare con lui, ma non che io voglia mettere a fare calcio nella vita, nel senso che è veramente un manager straordinario, nel senso che è uno che sta lì, che ti rompe le scatole fino all'ultimo. Sai quello che dice, no? Non bisogna arrangiarsi per il fatto che siamo primi e chiudere gli occhi. Ha ragione, cioè è chiaro che, allora, premesso che l'Inter, se la paragoniamo a quella di un anno fa, già deve essere felice così, nel senso l'anno scorso è andata in Champions League dopo il rigore sbagliato dei Cardi, col gol di Nainggolan, con la traversa all'ultimo momento fra un batticuore e l'altro all'ultima giornata. Oggi sta lì a interrogarsi su se vincerà il campionato, quindi già questo ti dà l'idea, no, di quanto sia cambiato. E lui non è che è felice, non è che si adagia, non è che sta lì a dire quanto sono finito. Cioè, dice anche quello, no, è affamato. Sì, però, dice che l'anno scorso ha chiuso dietro l'Atalanta, adesso è più 11, e quindi è straordinario. Poi, allora, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della costruzione di un meccanismo di squadra con Laudato, si può fare ancora meglio, secondo me. E in qualche modo, secondo me, Conte, della sua necessità di accelerare subito, di sistemare subito, ha fatto un'altra scelta, che è quella di una squadra molto solida, molto organizzata, con pochi punti deboli, più che la costruzione di un'idea di gioco alta. Tant'è vero che ieri, quando affronti un avversario di grandissimo livello, vedi che l'Inter è soprattutto quella roba lì, quindi solidità, grinta, i due fenomeni davanti, che sono due fenomeni di proporzioni pazzesche, perché l'Inter sono quei due, e la forza difensiva. L'Inter ha avuto poco dal suo centrocampo in questi mesi, anche perché ha avuto mille infortuni, non è stata fortunata con Sensi, con Barella. Anche perché non è certamente il miglior centrocampo, esatto, che ci sia, perché non ha tutta sta qualità. Valero, ragazzi, Borja Valero è diventato un giocatore importantissimo, spesso titolare, altre volte entra, con tutto il rispetto e con tutto l'affetto, è un giocatore onestamente dietro nella gerarchia, quindi questo ti dà l'idea dei problemi che ha avuto. A quei due fenomeni davanti, Conte è arrivato e ha sistemato le due o tre cose che poteva sistemare, l'ha fatto benissimo, e adesso per fare il salto di qualità si rende conto che serve altro. Aspetta che saluto Bortolo Muti. Ciao Bortolo. Ciao Giovanni, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Condividi il grido d'allarme di Conte, ma anche l'ha detto ieri, insomma, la coperta è corta, stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma adesso serve di più, ma anche la considerazione che solo una squadra che sta bene, che è organizzata, solida, ieri poteva reggere l'urto di quella Atalanta lì? Sì, no, per l'Atalanta in questo momento è veramente difficilissimo, mette in difficoltà qualsiasi squadra. L'Inter ieri effettivamente ha sofferto, però è riuscita, diciamo, con la bravura di Handanovic, un pizzico di fortuna, a portare via un risultato importante, però è chiaro, la solidità è il risultato, l'arma più importante per Conte, per diciamo così, far fronte a un Atalanta che ha giocato tutto campo, ha manovrato meglio. Forse in certi reparti ha messo anche più qualità, però come avete detto voi, la forza in questo momento dell'Inter è proprio la coppia centrale davanti, che è devastante, e sorreggerla fisicamente come ha fatto fino a un certo punto l'Inter è riuscita a stare in partita, però quando vengono a calare anche energie e anche in mezzo al campo certe risorse sono abbastanza latitanti, è chiaro che va in sofferenza. Ecco, proprio da questo punto di vista, calare fisicamente in mezzo al campo, ieri l'Atalanta nel secondo tempo si è accampata nel campo dell'Inter, non era pensabile qualche cambio un po' prima? Perché Gagliardini era molto affaticato, Candreva era affaticato, Brozovic, che è fondamentale in questa squadra, stava soffrendo, e l'Inter continuava ad abbassarsi sempre di più. Sì, beh, è entrato Borja, è uscito Sens, sicuramente qualche risorsa fresca avrebbe dato un pochino più di vigore, un pochino proprio anche... Però in mezzo non li aveva, perché non... Infatti aveva. Anche questo, effettivamente, guardando un po' la panchina, le risorse che c'è a disposizione, non è che poteva fare molto. Poi vabbè, l'entrata di Politano ha creato un pochino, diciamo così, di quella imprevedibilità e un po' più di corsa, però è poco, insomma. È chiaro che l'Inter, per mantenersi a certi livelli e sfruttare al massimo, diciamo, il lavoro di Conte, qualche intervento adesso deve portarlo, è essenziale, insomma, ecco, se vuoi rimanere lì e giocarti il campionato con la Juve. Guarda, ci pensavo ieri, perché poi Gasperini gli ha cambiato l'Atalanta in faccia 3-4 volte, sì, sì. Nell'arco di 90 minuti. Conte sembrava passivo dal punto di vista della risposta, e invece secondo me, perché ho letto anche chi critica, dice ieri ha sbagliato i cambi, ha sbagliato la gestione della partita davanti a una squadra che aveva più opzioni anche tattiche rispetto alla sua Inter. Io però torno che al vizio originale, se a metà campo non hai le forze per poter reggere un reparto che ha bisogno di cambi, è chiaro che contro l'Atalanta di oggi diventa difficile. Scrive un amico, giro direttamente a Bortolo Muti la domanda: oggi sarebbe meglio sedersi sulla panchina dell'Atalanta o della Lazio? Beh, sono due panchine veramente che stanno facendo tanto. Io dico che in questo momento Gasperini, tu hai detto proprio come cambia la partita in cambio, in corsa, come riesce, sicuramente ha anche gli elementi per farlo. Però io ieri ho detto, ero in una televisione, commentavamo, diciamo così, il dopo gara, e mi chiedevano chi è stato il miglior, chi hai visto, diciamo, dimmi Io ho detto, no, giocatori migliore tutti dell'Atalanta, bene. Sì. Il migliore dell'Atalanta era in panchina, Esperini. Cioè, come ha modulato la partita, come ha gestito certe situazioni. Cioè, prendere un gol dopo 2-3 minuti, andare sotto a San Siro, ma non fare una piega, andare avanti. E con un atteggiamento molto offensivo, addirittura con Pasalic in mediana, con De Ron fuori Freuler, e poi ha cambiato, ha messo addirittura diciamo Muriel con ancora Gomez trequartista e ha portato Malinowski in mediana. Cioè, è il coraggio e la consapevolezza di avere un gruppo che ti segue, che crede, una grande autostima. È chiaro che ci sono anche delle qualità nelle... Sì, Ilicic, Gomez e Malinowski più Pasalic che hai citato, non è che li hanno in molti, no Pier? Sì. E poi un Zapata a mezzo servizio. Un Zapata a mezzo servizio. Dimmi Pier. In realtà, parlando anche di Coppe Europee, no, il discorso che facevamo prima sulla Lazio, che l'Atalanta a qualche punto l'abbia lasciato per la Champions League. Poteva avere una condizione di classifica sicuramente migliore perché ha avuto gli alti e bassi, secondo me delle crisi di crescita, degli scossoni anche secondo me psicologici, quasi ormonali, da squadra adolescente, meravigliosamente adolescente in questa prima parte della stagione, no? Oggi vediamo una squadra che sicuramente ha trovato una sintesi e qualche punto l'ha lasciata, potrebbe avere una classifica secondo me nettamente migliore. Ti faccio anche banalmente l'esempio dei 3 punti lasciati a Bologna, con tutto rispetto per il Bologna, dopo la grande impresa in Ucraina. Quindi la dimostrazione del fatto che sono stati mesi importanti, sono di crescita ulteriore, di poi vederli giocare è fantastico perché vedi Gasperini fare mille cose, a un certo punto Gomez è partito a centro sinistra, è andato sul centro destra, poi si è abbassato, ha messo Malinowski, ha tolto la punta centrale fisica, ha giocato per una ventina di minuti senza quella punta centrale, comunque ha giocato bene, ha giocato forse addirittura meglio in quel periodo, poi ha reinserito Muriel, cioè una quantità di alternative, soprattutto dei movimenti, una condizione fisica enorme. Assolutamente. Sono d'accordo veramente, ma riguardo all'Atalanta in questo momento penso che abbia una condizione mentale e fisica al top, proprio ha raggiunto quella condizione che l'anno scorso poi l'ha portata al terzo posto, perché se guardiamo un po' il percorso dell'Atalanta, l'anno scorso aveva anche meno punti di quest'anno, poi ha fatto un giro di ritorno incredibile, per me è anche diciamo proprio orientata a fare un percorso similare, forse ancora con più qualità a disposizione. Allora 800 24 00 24 William da Bologna. William. Buonasera a tutti. Io sono quel tifoso interista che qualche anno fa da Parma espose quel cartello con scritto viva Mancini, e 10 giorni dopo Mazzarri fu esonerato. Volevo dire sì. Per quanto riguarda, non mi dire che hai preparato il cartello viva Conte per farlo mandar via, questo assolutamente no. Voglio dire che anche quest'anno, come al solito, ci sono tanti proclami, trattiamo con questo, quello e quell'altro, poi alla fine di gennaio ci troveremo come al solito senza nessun rinforzo. Beh, ad agosto è andata diversamente però William. Questo si chiama pessimismo. Questo si chiama pessimismo. Campagna d'inverno che va sempre a finire così, non siamo mai a quando finisce lo diciamo. Aspetta che gli risponde Bortolomeo. Dal punto di vista societario, dal punto di vista anche di fatturato, di crescita, la cosa più vicina alla Juve, cioè la società che sta sfidando più da vicino alla Juve, lascia perdere, c'è anche la Lazio dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di progetto e di investimenti, la nuova grande cosa del calcio italiano sembra essere l'Inter, questo è oggettivo in termini proprio di crescita di fatturato, di investimenti, di acquisti, di programmazione, quindi non è verissima questa cosa qui. No, io non condivido nemmeno io. Poi è chiaro che Vidal, tra l'altro, aggiornamento in queste ore dalla Catalogna arrivano notizie, le ha riportate anche il nostro Filippo Maria Ricci, per cui Xavi avrebbe detto di no all'ipotesi di tornare al Barcellona, ma Valverde sarebbe comunque a forte rischio esonero. È chiaro che diventa difficile andare a parlare di Vidal in queste ore, in questi giorni. C'è anche Suarez fuori 4 mesi. C'è anche Suarez fuori 4 mesi, quindi insomma è chiaro che quando tratti quei giocatori lì poi è anche tutto appeso abbastanza a un guarda, filo. Io ti dico, gli aggiornamenti sono, ho visto Luca Marchetti stamattina, allora per Young è praticamente chiusa, non convocato con lo United, non giocherà con lo United, è veramente a un passo dall'arrivare all'Inter. Con Eriksen sono molto avanti nelle trattative. Vidal, la situazione è questa, abbastanza in stallo. Con Giroud c'è l'accordo, ballano quattro soldi di distanza con il Chelsea. Quindi mi sembra un pessimismo eccessivo quello dell'ascoltatore. No, credo che la settimana sarà molto importante. Stanno facendo le cose. Cioè, ma io guarda, ti dico la verità, vedo dell'Inter di oggi, lo dico sinceramente, poi magari convincerà, io questo non lo so. Ma io vedo nell'Inter società, squadra, comunicazione, un salto in avanti clamoroso. Sta crescendo, chiaramente. Sta crescendo. A me sembra oggettivo, insomma, proprio un salto in avanti clamoroso. Poi le vittorie e le sconfitte passano anche per episodi, per situazioni, per momenti di forma di giocatori. Però mi sembra che veramente la crescita sia indiscutibile. Questo è un grande progetto perché ha forti investimenti e anche idee forti. Allora, andiamo verso la pausa, Pier, ti devo fermare. Mi rispondi Bortolo, ma veramente in 20 secondi, come si fa ad allenare i giocatori a tirare i rigori, visto che quelli dell'Atalanta continuano a sbagliarli, anche se ieri poi ha fatto una grande cosa Handanovic. Guarda, io ero rigorista. Cioè, cosa fa un allenatore? Sbatte la testa contro il muro? No, hai una rosa di ragazzi, io per esperienza ne avevo tre, c'era una gerarchia, comunque ti allenavi, ogni allenamento ti fermavi, calciavi, facevi dei filmati del portiere che andavi ad affrontare, le casistiche, tutto. C'è una preparazione, il rigore poi è, ti dico, per esperienza, quando sei lì non è facile effettivamente. No, purtroppo l'Atalanta in questo veramente è una... 9 rigoristi che hanno sbagliato il rigore, 8 o 9 che hanno sbagliato il rigore in questi anni, per cui è un dato poi, di poi fatto. Diventa anche complicato da gestire la pressione dal punto di vista psicologico. Dobbiamo fermarci, grazie Bortolo Mutti. Figurati, buona ciao, serata a voi. Ciao, grazie. Intanto vi do notizia che Verona-Genoa, gara in programma alle 18, inizierà con un quarto d'ora di ritardo, perché nel sopralluogo che è stato fatto in campo è emerso che le righe dell'area di rigore del Bentegodi erano tracciate storte. Capita anche questo, un minuto torniamo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Tanti dicono che questa è fortuna, ma il fatto di vincere sempre al 90esimo, questo invece è non mollare mai e fa parte di questa squadra, quindi sono contento, siamo migliorati tanto su quello, alla fine ci crediamo fino alla fine, ecco quello che ci è scattato qualcosa nella nostra testa che non ci deve far mollare assolutamente, ma ci deve fare dare sempre una spinta positiva in più in avanti. Identity, fragments of scattered debris. Rischia Ospina su Immobile, perde palla, Immobile cerca la porta, lancia il vantaggio. Credo che il gol possa essere di Giro Immobile, perché la palla era indirizzata verso la porta. Ma cosa ha fatto Ospina? È il quarto gol consecutivo che Napoli si fa da solo. Un bellissimo record, perché 10 vittorie consecutive, in queste 10 vittorie ci abbiamo pure un trofeo, bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Lazio deve recuperare una partita contro l'Udinese, dovesse vincerla in casa girerebbe potenzialmente a 45, quindi con una proiezione di 90 col Verona, quindi stiamo davvero parlando di un campionato straordinario quello della Lazio. Saluto Nando Orsi, ciao Nando. Ciao Nandone. Ciao, buonasera a tutti. Dai, la domanda è secca, la Lazio da scudetto? Perché ieri insomma Inzaghi se l'è fatto scappare. Beh, insomma, se potenzialmente sta a 2 punti dall'Inter e a 3, cioè sì. Anche se l'obiettivo è la Champions League, ma adesso non si può più nascondere, nel senso che l'obiettivo è la Champions, e quindi secondo me sarebbe una stagione stupenda, meravigliosa, se una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una qualificazione in Champions, sarebbe spettacolare. Poi dopo il sogno non costa niente, quindi siccome ci sei è giusto provarci. Siete d'accordo? Di quelle tre lì è quella, certo. Certamente ha un vantaggio, che delle tre è quella che corre più leggera, deve stare attenta a non crearsi pressioni, è giusto andare avanti una partita alla volta, come diranno tutti a partire da Inzaghi, Però, no, ma Inzaghi ha detto una cosa diversa. Sì, Inzaghi sì. ha detto, e secondo me è questo il grande salto, gli hanno chiesto quanto manca. Manca poco. Manca, ad esempio, ha detto, che non sia come negli ultimi due anni che poi giochiamo le ultime 10 partite perdendo dei giocatori importanti. Beh, torniamo al punto di partenza. Servirebbe allungare la rosa in modo che da poter sostituire adeguatamente quelli importanti. Beh, ma uno come Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic non li trovi, eh? Esatto, la puoi solo allungare la rosa, anche perché onestamente insomma non, cioè io non veramente non toccherei nulla. Allungare la rosa è giusto, allungare la rosa è giusto, cioè avere due o tre cambi in più per le rotazioni, questo è indiscutibile. Però Marlo, questo lo chiedo però anche a Nando, oltre a chiedergli quando torna con l'infortunio, perché eccomi al secondo grado ci ho avuto, che devo fare? Siamo dieci giorni scusate, questo è di servizio, stiamo parlando di padel, come si migliora la Lazio? Come si migliora la Lazio? Come si migliora? Allungando la rosa, allungando l'organico, dando delle alternative importanti. Purtroppo la Lazio aveva preso Johnny al posto di Lulic, Vavro al posto un potenziale titolare, Lazzari che è l'unico giocatore che poi gioca, però se questi tre giocatori tu li fai giocare due o tre partite di seguito in un contesto come questo di adesso, li sostituisci con degli altri, io non penso che la Lazio faccia quattro vittorie di seguito, ecco quello che voglio dire. Quindi è quello purtroppo. E Inzaghi velatamente, ma il messaggio l'ha mandato, perché poi dopo il giro d'andata è meraviglioso, poi dopo ci sono gli infortuni, le squalifiche, perché poi dopo i cartellini gialli si sommano, sì, e quando arrivi a 6-7 che te ne manca in poi, dalla ventesima in poi, non avere le coppe quindi fare una partita a settimana può essere un vantaggio enorme, certo. io credo che se la giochi, poi è ovvio che la Juve, soprattutto la Juve, ancora più dell'Inter, ha una rosa più profonda, quindi razionalmente mancano 19 partite, è possibile che possa avere un vantaggio, però secondo me, ecco, siamo in una situazione di quasi parità con le altre due, di quasi parità. Se la gioca anche Immobile, 20 gol, 2 in più di Higuain a metà strada nell'anno dei 36 gol di Higuain. Cioè, il discorso è semplice, devono rimanere questi, non non gli venga il raffreddore, e devono tenere questa condizione. Sono tre variabili difficilmente... Avendo da qui a fine anno 20 partite più la Coppa Italia. Sì, però 20 senza che succeda niente... Comunque a Brescia c'erano due assenze importanti e la vittoria è arrivata ugualmente. Cioè non è neanche detto che sia così, è una squadra secondo me molto sottovalutata. Poi Fernando era Brescia, è una squadra, secondo me, lo dico da tre anni, è una squadra un po' sottovalutata in alcuni giocatori. Cioè, Radu, per esempio, è un giocatore di affidabilità clamorosa, Stracoscia è un portiere che sbaglia pochissimo, non ce ne sono molti come Stracoscia in giro per l'Italia. Tu poi pensa che quella fascia sinistra era, non so se era Lulic e Radu, hanno quasi 70 anni. Eppure Lulic è ancora insostituibile. Devono ballare ancora 5 mesi. Devono ballare 5 mesi ancora. Nando, però ce la possono fare. Però ce la possono fare perché se tu vai a vedere, potenzialmente hanno 10 punti da Roma e Atalanta. Sì, 10 punti. Che arrivano quarti è una gran cosa. Quindi qui stiamo parlando del piano più alto, però. Senti, invece, da portiere a portiere, come si fa a prendere il gol che ha preso ieri Ospina, che segue i tre gol presi, uno diciamo proprio da Meret contro l'Inter? Come si fa? Questa è la conseguenza, ma non parlo di Ospina, perché i gol si possono prendere, perché la settimana prima Meret aveva preso un gol sbagliando tecnicamente tanto. Questa è la conseguenza del fatto che adesso, avendo tolto anche il passaggio che deve andare fuori dell'area di rigore, adesso il portiere ha delle responsabilità che il portiere ha la più grossa responsabilità della partita, di sempre, da quando è nato il calcio: non prendere gol, perché il concetto è far gol. E quindi la responsabilità emotiva, tecnica, ma di tutto. E quindi adesso hai in più la responsabilità di giocare anche con la squadra, di essere l'undicesimo giocatore, che non dico che sia sbagliato, ma che però lo grava ancora di ulteriore situazione. Quindi che cosa succede? Succede che il portiere spesso si sente veramente un giocatore uguale al centrocampista, con gli stessi piedi, ed esagera. E può succedere quello che è successo ad Ospina. Quindi la colpa non è di Gattuso, di Ospina, è di una situazione. Il calcio sta cambiando, il portiere sta rientrando come un giocatore, ma secondo me il portiere non è come un giocatore. Il portiere è diventato un lavoro usurante quello del portiere. Grazie Nando. Ciao ragazzi, ciao. Allora vi ribadiamo che Verona-Genoa comincia alle 18:15 perché nel sopralluogo è emerso che le righe dell'area di rigore del Bentegodi erano state tracciate con delle curve, erano storte, quindi parliamo di pochi centimetri, però qualcosa che secondo il direttore di gara non permetteva l'inizio regolare della partita, quindi si slitta di un quarto d'ora, si comincia alle 18:15. Noi adesso ci fermiamo per il traffico, quando torniamo Varanato Luca Marelli. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Mi dispiace, lo dico, ormai la partita è finita, sono un po' risultato, però sono brutte queste cose, sono gravi, perché con le immagini così questi tipi di errori non dovrebbero veramente esserci. Assolutamente. È incomprensibile, però mi dispiace anche per chi era al VAR, per gli arbitri stessi, però queste cose tolgono valore a uno strumento che invece... E in certi casi è veramente difficile anche vederlo attraverso la televisione, attraverso il VAR. Però questi sono casi che non riusciamo a capire perché. Lo vedono tutti e non riescono a vederlo loro. Allora, eccoci qui con VAR Anatomy, Luca Marelli, ciao. Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Oggi ci sono due o tre episodi interessanti, ma ci concentriamo su Inter-Atalanta di ieri sera, perché c'è poco da fare. Anche il dibattito con cui abbiamo aperto, cioè il VAR così serve o no, secondo me il VAR così non serve, sta uccidendo la fiducia nelle decisioni prese, fiducia che si era anche guadagnato soprattutto nella prima stagione. Quindi ruota tutto attorno alla serata di ieri di San Siro in attesa di Roma-Juventus, che è un'altra partita tradizionalmente molto delicata. È stata affidata a guida con Mazzoleni al VAR. La premessa l'abbiamo fatta, è che insomma da ieri circolano mille tesi, secondo me la gran parte artificiose, strumentali, per cercare di spiegare quello che sarebbe semplice, secondo me, e diretto e coerente etichettare con una sola parola: un errore, pure grave, di cui oggi noi parliamo, così come in passato abbiamo parlato di tutti gli errori che abbiamo visto, a volte anche in controtendenza rispetto ad altri commentatori, nelle partite che insieme a Luca la domenica pomeriggio abbiamo la fortuna di poter analizzare. Allora, se sei d'accordo, partiamo da quell'episodio lì, Luca. 39esimo del primo tempo, il contatto Lautaro Martinez-Toloi in una mischia a due passi dalla porta, la palla va in angolo, Rocchi attende per qualche secondo, poi arriva il via libera di Irrati, si vede proprio il gesto di Rocchi che aspetta un attimo, ascolta l'auricolare, e via libera che a me appare assurdo. Oggi le moviole tutte certificano che si sia trattato di un errore, la mancata concessione del calcio di rigore. Allora Luca, se ci aiuti a ricostruirla tutta quell'azione. Ma sì, la situazione è abbastanza semplice per quanto riguarda la parte arbitrale. Rocchi in quella situazione non può vedere assolutamente nulla, perché è un episodio che avviene sostanzialmente a terra e dalla sua posizione è coperto da una decina di giocatori che sono come sempre all'interno, vicino alla linea, all'area di porta. Perché è sempre così sui calci da fermo. Ricordiamo che l'azione nasce da un calcio di punizione battuto da Gomez con un cross al centro. È ovvio che dalla sua posizione non abbia potuto fischiare il calcio di rigore, perché non l'ha visto, era coperto da almeno il corpo di Lautaro Martinez, di Toloi e forse anche di qualcun altro. Il fallo è netto, lo si vede soprattutto dalle inquadrature basse. Lautaro si è accorto che Toloi, dopo il colpo di testa, avrebbe potuto tranquillamente arrivare sul pallone, poi magari andando vicino avrebbe potuto compiere un miracolo, però questo conta niente. È la classica situazione, esatto, in cui un giocatore poi prova anche per istinto, no, a fare una giocata. Esatto. Quindi calcio di rigore, dopodiché, senza grosse discussioni. Dopodiché? Dopodiché c'è la questione del cartellino, che sarebbe stato un cartellino rosso, perché come sappiamo il doxo è diviso in il due doxo, grandi categorie. Traduciamolo per chi pensa di sapere il regolamento ma non chiara lo conosce. Occasione da rete. La chiara occasione da rete. È la chiara occasione da rete, che può essere un doxo genuino o non genuino. Genuino nel caso in cui ci sia la contesa del pallone o il tentativo di contendere il pallone, non genuino quando si tratta di una trattenuta. Questa è una trattenuta molto atipica, perché avviene su una gamba con le braccia, però è una trattenuta, perciò possiamo escludere il doxo genuino. Questo sicuramente è un doxo non genuino, che perciò non viene depenalizzato. Il cartellino rosso rimane cartellino rosso, come in questo caso. E quindi Lautaro Martinez andava espulso. Questo per dire che insomma il regolamento da questo punto di vista è molto chiaro, perché c'è anche chi ha contestato l'idea che potesse essere cartellino rosso. Sarebbe stata una giocata genuina pur nel fallo, nel rugby credo, con un tentativo di placcaggio sì, basso. Certamente non nel calcio. Se tu metti in gioco le mani, automaticamente significa che stai cercando non di giocare il pallone in maniera regolare. Questo lo spieghiamo bene, proprio in maniera didascalica. Sì, sì. Poi c'è la questione nel rugby e la francesina. Esatto. Poi c'è la questione della presunta spinta da cui sarebbe generata la caduta di Lautaro Martinez, una spinta scrivono in tanti tifosi dell'Inter anche a noi in questi minuti, una spinta di Zapata. È una spinta inesistente, perché Zapata appoggia le mani su Toloi, ma lo si vede tranquillamente dalle immagini per chi vuole vederlo. Il fatto è questo, Giovanni, è inutile che ce lo nascondiamo. Ormai è la ricerca dell'errore a favore di una certa squadra o di una propria squadra, oppure la giustificazione di una decisione andando a cercare delle spiegazioni surreali. In questo caso la spinta, soprattutto sempre dalla telecamera dietro, che sono le immagini che abbiamo per ora, dalla telecamera dietro vediamo che le mani di Zapata non si vedono mai sulla schiena di Lautaro. Probabilmente Zapata ha appoggiato entrambe le mani su Toloi, sul suo compagno di squadra, per la dinamica dell'azione, perché in quelle circostanze, come sappiamo, in area di rigore le spinte si sprecano, ci sono una quantità infinita di piccoli contatti con le mani, con le braccia, con le anche, anche con le gambe, però sono tutti episodi molto marginali nella dinamica di un'azione. In questo caso Zapata con entrambe le mani tocca il suo compagno di squadra. Ok, quindi non tocca Lautaro. Pier? No, io sono d'accordo e ribadisco quello che ho detto all'inizio. Non è un discorso di Inter, Juve, Milan, Lazio, non c'entra niente. Cioè, io continuo a non vedere, e penso che Luca lo potrà confermare, nessun vento, nessun complotto, nessuna direzione precisa degli errori. Vedo soltanto errori, e quindi poi una volta se dici che c'è un rigore ti dicono che sei dell'Inter, una volta diversa della Juve, ma chi se ne frega. Quello che mi sembra sostanzialmente incomprensibile è perché lo strumento tecnologico non venga usato e non venga usato bene. Il Ratti non sta vivendo una grande stagione, lui è un grandissimo barista. Volevo capire due cose sulla dinamica, volevo chiedere a Luca. Uno è se diciamo la forza di Ratti, che sappiamo è un grande arbitro da VAR, può avere in qualche modo pesato sulla decisione dell'arbitro di non andare a vedere l'episodio. E la seconda è se nella dinamica però non potesse venire il dubbio a Rocchi, perché sinceramente un giocatore che è solo davanti al portiere è difficile che si butti. Che cade in ginocchio è molto complicato. Difficile, no? Questa vai cosa Luca. No, se guardiamo le immagini, subito dopo l'episodio, nel momento stesso in cui Rocchi indica il calcio d'angolo, notiamo un'espressione po' dubbiosa di Rocchi, perché secondo me di qualcosa aveva il dubbio che ci fosse successo, ma che lui non aveva visto. Probabilmente ha aspettato che Irrati gli desse il là per andare alla on field review e non l'ha ottenuto, probabilmente perché Irrati alla fine si è convinto che non ci fosse nulla che potesse essere qualificato come chiaro ed evidente errore. La mia sensazione, considerando che la review, il check, è durato più o meno 30 secondi, su un episodio di questo genere sono veramente troppo pochi, è che Irrati non si sia proprio accorto di quel braccio di Lautaro sulla gamba di Toloi e probabilmente abbia dato il via libera con troppa celerità. Allora Luca, abbiamo ancora un minuto, rispondimi, io vorrei parlare anche dell'altro rigore. Ecco, rispondimi in flash, se c'è il rigore o no per l'intervento di Bastoni su Malinowski, secondo me però abbiamo un minuto. È un po' eccessiva o vai. No? Vai Luca. A me questi rigori piacciono pochissimo, l'ho sempre detto anche in questa trasmissione, l'ho detto tante volte, come per Juventus-Genoa, per Bologna-Inter, per Lazio-Atalanta, sono sempre della stessa linea. È un contatto veramente da poco, devo dire che però Bastoni è stato veramente molto ingenuo, perché nella prospettiva di Rocchi quel braccio dietro la schiena di Malinovskyi induce l'arbitro a fischiare, è un contatto piuttosto leggero, è un'accentuazione molto evidente. E andava ripetuto o no quel calcio di rigore per l'ingresso di due giocatori assolutamente, dell'Inter in area? Assolutamente no, il VAR poteva intervenire solamente se l'intervento di Godin avesse impedito una chiara occasione da rete. Non è questo il caso, perché Godin recupera il pallone che è già molto fuori dallo specchio, il giocatore più vicino è Zapata che è dietro di lui, perciò non c'era nessuna possibilità che intervenisse il VAR. Quindi non andava ripetuto, speriamo di aver chiarito pagina tutto. Pagina 34. Ecco, pagina 34 del regolamento, ma se c'è qualcuno che è più bravo di un ex arbitro di Serie A, noi siamo qui, impariamo da tutti, grazie Luca. Ciao. A voi, buon lavoro. Grazie Ciao. Luca Marelli, grazie anche a te Pier, buona trasmissione sì, e buon inizio di settimana. Vai però veramente 5. Sì, negli errori di ieri c'è la dimostrazione del fatto che non è che c'è una tendenza, perché alla fine poi c'è stato un episodio che è un rigore che ci può stare, ma insomma, se ci fosse stato un complotto non avrebbe dato rigore alla fine. Non avrebbe dato cerchiamo nemmeno. Cerchiamo di capire e stimolare il miglioramento dell'applicazione del regolamento. Ciao Pier, a domani. Ciao, a domani, e noi invece tra pochi minuti dopo il GR delle 18. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Per un attaccante è importante sempre provare a stare lì avanti la porta, e poi ogni tanto entra, ogni tanto non entra, però speriamo che entra, però è importante che mi sento bene, e poi gol arrivano. Avete tolto 7 anni di Zlatan nella mia vita, avete reso monca la mia vita, ma adesso si è riagganciato tutto. Ibra! Ibra! Mamma mia, senza colpo ferire, Zlatan apre le braccia! Ogni gol che faccio delle celebrazioni di Dio. Così mi sento vivo. Per un attaccante è importante sempre provare a stare lì avanti la porta, e poi ogni tanto entra, ogni tanto non entra, però speriamo che entra. Però è importante che mi sento bene, e poi gol arrivano. Non segnava da 7 anni e 250 giorni Ibrahimovic con la maglia del Milan. Ieri ha fatto un gol veramente bello, quello che ha chiuso di fatto la partita con il Cagliari. 8-0-0, 24-0-0, 24. Aspettiamo l'inizio di Verona-Genoa. Non potevamo che non chiamare un grande tifoso del Milan per parlare, io credo, più delle sensazioni che tecnicamente di quello che si è visto ieri in campo. Saluto Ringo, ciao. Ciao Ringo. Ciao ragazzi, ciao. Che accoglienza, incidenti e Ibra, eh? Sì, assolutamente, ma tu come Mauro Suma, che abbiamo sentito nella telecronaca di ieri, ti sentivi sperso nel bosco senza Ibra e finalmente hai ritrovato la guida? Io mi sentivo il lupo del bosco, non lui. Mi fa impazzire come lo osannava. Vabbè, giustamente fanno il lavoro così, va fatto così. In questo caso Ibra è tornato. E il lupo e Capuccetto deve stare molto attento. Chi è Capuccetto, però, scusa? Ogni partita l'avversario è Capuccetto Rosso. Senti, ma c'erano e ci sono ancora un sacco di detrattori, non io che sono ibraista convinto, però c'è ancora gente che dice: ma come fa a rianimare il Milan, il colpo della disperazione, l'ultima carta, l'ultima chance, cosa serve, è vecchio, tutte cose che sai. È una risposta ho fatto un tweet proprio su questo con l'ironia. Ma è normale, lo so che ha 38 anni, che non ha 25 anni, ma il Milan in questo momento non aveva bisogno dell'Ibra Ibrahimovic atleta. Più che altro aveva bisogno dell'Ibrahimovic motivatore, allenatore in campo, cazziatore quando c'era il momento da farlo. Cioè, colui che deve tenere in mano il geometra della squadra. Qual è il problema? Lo sai benissimo che ci sono degli calciatori come Pirlo, lo stesso Ronaldo ha fatto partite che era al 60% fisicamente e poi ti inventava il colpo e faceva gol. Quindi Ibra deve essere il Ronaldo del Milan. Non dico il Ronaldo, Ibra deve essere, perché lui è veramente diverso. Ibra mi ricorda, facciamo finta, parliamo di attori, Ibra è un Clint Eastwood diverso da mille altri attori che a Hollywood all'epoca hanno fatto storia per mille altri motivi e forse tecnicamente anche più bravi di Clint Eastwood. Ma Clint rimane unico, no? Sia come attore, come regista, come io la chiamo la troncia. Bastava che uscisse lui col sigaro in bocca, no? Il buono, brutto e cattivo, già avevi fatto il film col poncio. Ibra è così, sì. È arrivato col poncio, quando alza il poncio devono spostarsi. Guarda, ti giro un messaggio che è arrivato di un amico che scrive: sembra che l'operazione Ibra abbia successo, però non dimenticherei il detto: in un mondo di ciechi chi ha un solo occhio è un dio, e Ibra ovviamente è colui che ha un solo occhio. Ma adesso si gioca su mille cose, ma Ibra, io ho visto anche al posto della Madonnina sul Duomo d'Oro c'è stato lui, no? La statua. Cioè, è giusto, in questo momento al Milan ci voleva uno come lui è il salvatore. Per adesso la prima partita aveva quasi fatto gol, con la Sampdoria ha giocato 20 minuti, 25 minuti. Qua ha giocato 90, io l'ho visto fin dall'inizio che aveva sì e no il 60-65% di potenza fisica, si vedeva. E mi ha colpito la sua intelligenza. Ho detto: adesso se si brucia l'energia subito è finita, no? Avevo questo sentore. E invece lui faceva solo gli scatti giusti, il passaggio giusto, il contrasto giusto. Questo dimostra che è tornato anche molto più intelligente di prima a livello calcistico. Ringo, se il Milan fosse una moto hanno aumentato il numero dei cavalli, ma il telaio è rimasto quello. Se quello che hai detto tu lo condivido prima su Ibra, c'è un'altra cosa, secondo me può servire anche a capire chi di quegli altri può servire per il futuro, quali altri giocatori sono utili per costruire. Fatto. No, ancora no, lo farà. Beh, però ha detto: voglio Leao, voglio Leao, e Leao è stato messo lì. E non so, è chiaro che ha deciso l'allenatore con la società. Suso, Çalhanoğlu e gli altri, insomma, no? Devono, senza di questi siamo andati avanti. Cioè, abbiamo fatto la prima partita dove finalmente il Milan, non dico che ha giocato chissà come, però dai, 3 punti fuori casa, una squadra che comunque adesso il Cagliari non è andata male, a parte l'ultimo periodo, no? Sì, il Cagliari ieri credo che abbia perso la quarta di fila, però insomma ha comunque un girone d'andata assolutamente rispettabile. Certo, è sesto. C'è Ibra, è giusto che quello, io per adesso tutto è andato bene, non ha strafatto lui, dai, ha fatto 5-6 passaggi meravigliosi, ha fatto quasi un gol salvato sulla linea dal palo, una grande parata, ma la cosa, non so voi se ne siete accorti, al gol Ibra ha chiamato tutti in cerchio. Bravo. Ha chiamato tutti. È la prima volta che vedi i giocatori tutti in cerchio darsi il buffetto sulla nuca, darsi un abbraccio, ringraziare Leao del gol. È stato Ibra a chiamarli. Io guardavo, ero molto attento. Sono gesti molto importanti, come nel vostro mestiere, nel nostro mestiere. Ci sono gesti scaramantici, gesti di affetto, gesti tecnici. Noi abbiamo bisogno di questo. No, hai ragione, anche perché per tutti quegli altri sapere che comunque c'è questo il nome, il santo protettore là davanti. Adesso non esageriamo con la blasfemia, però il santo protettore là davanti per questi qui che di personalità non ne hanno tantissima è una cosa utile. Diciamola così. Allora, giro qualche messaggio. Fatemi capire: con tutti gli allenatori che ha cambiato il Milan, c'era bisogno di uno in campo? Evidentemente sì, ma questo succede in tanti sport, in tante squadre. squadre. Il carisma ha un peso. Poi Ibrahimovic dovrebbe essere anche l'allenatore ombra, un conto, e dare suggerimenti e motivare, ma i ruoli vanno distinti. Ma io credo di fatti che alla fine le decisioni le prenda Pioli, Ci metto 10 secondi a rispondere al vostro ascoltatore. Il Milan storicamente ha sempre avuto allenatori in campo, da Ancelotti, da Rivera, Ancelotti, Seedorf, erano allenatori in campo. Baresi guidava, ma guidava sì, non solo la difesa, ragazzi, non solo la difesa. Baresi guidava solo la difesa, faceva l'allenatore della difesa. O sbaglio? Sì. No, verissimo. E allora, cioè, ma i Pirlo, che non, Pirlo magari meno come atteggiamento, più come pittore, dava le pennellate. Però non dimentichiamoci di questi. Cioè, io mi ricordo Ancelotti, fenomenale in campo, guidava lui. Reichard, ma possiamo fare mille nomi. Una squadra in cui era difficile trovare qualcuno che non fosse in grado di guidare squadra o reparto, e difatti è una squadra che ha scritto la storia. Origo, se hai pazienza ti chiedo un minuto, abbiamo il traffico, certo. Poi voglio farti l'ultima domanda, perché dando un'occhiata alla classifica improvvisamente torna ad avere un senso quello che attende il Milan nelle prossime 19 giornate, ma questo io credo apra anche ad altre domande. Traffico, torniamo subito, chiedo pazienza anche a Carlo da Bergamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 tutti con... convocati. Allora, la domanda, parlando di Milan, intanto è cominciata finalmente Verona-Genoa, si gioca da 2 minuti e mezzo, hanno raddrizzato le linee dell'area di rigore e quindi insomma si è partiti, seppure con un quarto d'ora di ritardo, 0-0 il parziale. La domanda a proposito del Milan è questa: leggo la classifica, Milan 9, 25 punti, meno 10 dall'Atalanta, che in questo momento è quarta pari merito con la Roma. Vedremo se quella distanza dalla zona Champions aumenterà o meno a seconda del risultato questa sera della Roma. Meno 4 dal Cagliari, che è sesto, in questo momento rappresenta il confine con la zona Europa League. Allora la domanda è questa: intanto, qual è la prospettiva del Milan da qui a maggio, Ringo? Prospettiva è mettere a posto una stagione iniziata in modo disastroso, un po' non c'è da nascondersi, con Giampaolo che ha fatto dei disastri proprio, ma ancora non me ne capacito. Capisco perché un allenatore come lui, quando ha visto che non capiva la mazza, non si sia licenziato da solo, vabbè, questo però arrangerà lui, la sua coscienza. O no, io se faccio il disgioco nella discoteca vedo che la pista non si riempie, è una, due, tre volte. Dico, ragazzi, non è per me questa disco, scusatemi, mi tolgo dalle scatole, ma non esiste portare. Però voglio dire, il Milan mette a posto adesso il piccolo tassello è questo: rimettere a posto la squadra. C'erano dei contratti che erano allucinanti, Borini e altri, vabbè, lasciamo stare, fatti dalla precedente gestione. Sì, anche quella di adesso non è che abbia brillato sul mercato. No, però ha avuto. Ti dico soltanto che 85 milioni di mercato sono soldi che l'Inter ha speso solo per Lukaku. Cioè, sì, ma non è che il Milan abbia speso poco. Voglio dire, un anno fa in questi giorni celebravamo i 73 milioni spesi per Piontek e Paquetà. Uno probabilmente andrà in Premier e l'altro in questo momento è la terza scelta. È lì Leonardo che l'ha voluto, Paquetà, e sembrava che fosse un mega fenomeno, ma insomma, cioè, le annate vanno così, voglio dirti, è come il grande chitarrista, sono le serate che la solo non viene, chiaro che sia, però è un grande chitarrista, alla lunga viene fuori il tour. Invece ci sono altri chitarristi che non sono fenomenali e poi vengono fuori problemi. Piontek sembra uno zombie in campo, io non so cosa gli sia successo. Sì, è non un è Piontek che me la posso prendere con la molto società. Diverso da quella dell'anno scorso. Se Suso non corre, non recupera, quando perde il pallone, guarda l'uomo che scappa, non è che lo rincorre e non riesce a mettere su un cross. Ma cosa me la posso prendere con la società? Ma veramente? L'altra domanda è, visto come stanno andando le cose, e cioè se è bastato inserire l'uomo come Ibra forte dentro lo spogliatoio, se allora non valeva la pena farlo a luglio, o magari anche farlo prima quando lo chiedeva Gattuso? Sì, ma a pensarci adesso sì. Però ripeto, adesso l'unica, se loro fanno l'errore di stare a guardare. No, perché tu giustamente prima hai criticato Giampaolo che ha fatto una tonnellata di errori. Però mi sembra che qui l'errore di lettura iniziale sia al piano di sopra di Giampaolo. Senti, Giampaolo non ha fatto degli errori, Giampaolo ha costruito un disastro. Disastro. Beh, però il Milan degli under 25, il Milan giovane, il Milan senza un certo tipo di giocatori non l'ha deciso lui. No, però ragazzi, voi mi state provocando, non ci casco. Cioè, mi state provocando, non ci casco, perché non firmare il contratto, se non ti va il progetto, che cacchio viene a fare a Milano? Scusa, se non ti piace la moto, la provi, se non ti piace, lui è voluto andarci, non ha... Il progetto gli andava bene, però mi chiedo come cacchio li ha allenati che certi camminano. Castiglieco, ma Castiglieco tutta la vita, lo so che vale un quarto di studio di piedi, ma in questo momento mi fa più il Castiglieco che corre 300 km come ha fatto ieri, un motorino sembrava, no? Bisogna correre, non è questo sport, non l'ho inventato io. Cioè, secondo me è fare baseball, che fai una corsa ogni... Cioè, stai lì, fai la mazza, ogni tanto ti fai 50 metri, fai la base... Baseball è comunque uno sport che ha anche un contenuto agonistico e fisico, perché altrimenti fisico, poi si scrivono gli amici che sono amanti del baseball. Io dico che la società è stata anche molto sfigata, perché le scelte, purtroppo, Giampaolo è andato in crisi. Suso, che faceva un po' il fenomeno, è andato in crisi, ma già da tanto. Altri, insomma, la preparazione, non lo so, totale siamo arrivati a questi punti, colpa di tutti, bisogna suddividerla anche, è in chiaro che la società è giovane, è chiaro, la squadra è giovane, sono tutti giovani, alla fine si divide le colpe, però io quello che mi fa più arrabbiare di tutti è l'allenatore sempre. L'allenatore è lui che va in campo, è lui che ha in mano la squadra, è lui che sa se uno è triste, che si è mollato con la moglie, l'altro è felice perché ha conquistato Charlize Theron. Deve saperle lui. Va bene, certo. È che Giampaolo ci ha capito poco, poi in realtà fino a ieri pomeriggio Pioli aveva una media punti inferiore a quella di Giampaolo, ma qui mi fermo perché Giampaolo dobbiamo salutare. Era sempre triste, Ringaccio. Ci sentiamo. Sì, ma è chiaro, insomma. Dai, grazie Ringo. Presto, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima. Intanto 0-0, minuto numero 9 in corso al Bentegodi tra Verona e Genoa. Abbiamo Carlo Laudisa che adesso andiamo a disturbare tra pochi istanti. A proposito di mercato, prima Carlo da Bergamo, 800 24 00 24. Carlo, buonasera a tutti. Vai. Mi piace tantissimo partecipare a questa bellissima trasmissione. Volevo dire, tornando alla questione del VAR, ma non soffermandomi in modo polemico, che comunque l'Atalanta, per come ha giocato con Juve, Inter, Lazio, negli interventi del VAR ha sempre avuto la peggio. L'Atalanta potrebbe avere quei 7-8 punti in più tranquillamente, secondo me, solo a Napoli il VAR non è intervenuto, diciamo così. Sì, non è stata particolarmente fortunata in questi snodi. Hai perfettamente ragione, Carlo. Qui ritorno a quello che abbiamo detto all'inizio. Noi ne abbiamo parlato ampiamente anche dopo Atalanta-Juventus, così mettiamo di nuovo tranquilli gli amici interisti che pensano che si faccia il processo solo all'errore di ieri sera di Rocchi Errati su Lautaro Martinez. Grazie Carlo, grazie. Ciao. 0-0 sempre Verona-Genoa. Carlo Laudisa, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, che notizie arrivano per il Conte dolente che abbiamo sentito prima, insomma, tranquillo ancora, ma abbastanza deciso nel lanciare il messaggio che ha bisogno di qualcosa e io credo anche abbastanza in fretta, perché poi gennaio è un mese in cui gli impegni arrivano uno dopo l'altro. Ma la settimana entrante credo che sarà decisiva per soddisfare le aspettative dell'allenatore. Ci sono vari fronti, no? Aperti in via proprio in ordine di apparizione. Ashley Young, il terzino dello United, è la pratica che appare più avanti. Poi vedremo a metà settimana se effettivamente il Milan sarà ancora l'idea di fare lo scambio Politano Chessi, dopo anche la notizia sul cambio di modulo con il 4-4-2. E ovviamente la parte principale di tutta questa vicenda è quella che riguarda Christian Eriksen, perché le notizie che arrivano sono di appunto un principio di accordo tra il giocatore e l'Inter, però ancora non è stato preso contatto con il Tottenham e sono situazioni che evidentemente in questo momento vanno lette con grande cautela, perché c'è ottimismo in casa Inter, ma ancora non è nulla di fatto. In subordine c'è poi la questione dell'attaccante, e questa è in subordine a Politano, perché se Politano dovesse effettivamente cambiare maglia, allora Giroud, Olivier Giroud, appare in pole position per entrare, per prendere la via di Appiano Gentile. Mi sembra sia particolarmente incasinata la strada che porta Vidal per diverse ragioni. Il Barcellona sta per cambiare allenatore, Xavi ha rifiutato, però Valverde potrebbe andare lo stesso. Se è fatto male starà fuori 4 mesi Suarez. Vidal, se il Barcellona dice ragazzi non ve lo diamo, l'Inter non è che può mettersi d'accordo finché vuole con Vidal, ma non ci arriva, quindi mi sembra sia diventata un po' difficile quella strada. Sì, io infatti stavo parlando di Eriksen. Vidal lo avevo tenuto in una sorta di limbo, perché sicuramente i contatti ci sono stati in queste settimane, ma sia le difficoltà interne al Barcellona che, come hai già notato tu, l'infortunio di Suarez indirettamente complica le mosse di un club che non ha particolare liquidità finanziaria a disposizione, a dispetto della grandezza del club. Quindi io temo che Vidal sia sempre più legato al Barcellona, e quindi l'Inter segue questa pista anche finché non ha chiuso per Eriksen, però evidentemente c'è stato un sorpasso indiretto. Carlo, oggi l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno di Caldara, 18 mesi di prestito, diritto di riscatto, insomma è stato detto e scritto tutto. 15 milioni, sì. Ecco, su questa vicenda, anche a livello di commento di un'operazione apparentemente sconveniente per il Milan, ma chiaramente c'è dietro una strategia differente. E a proposito di questo, mi piacerebbe capire, al di là di Kjaer che ha fatto il percorso inverso, se in questa settimana, forte anche magari di quello che si è visto in campo, questa vittoria a Cagliari che ribalta un po' la situazione in classifica, Pioli può pensare di abbracciare qualcun altro di quelli pronti subito? Non abbiamo segnali particolarmente efferescenti sotto questo profilo. Ripeto, se si rinuncia a Politano e quindi che si resta, bisogna vedere quale sarà il nuovo target del mercato rossonero. La tappa di Cagliari sicuramente è positiva, però io credo che il mercato del Milan rimanga difficile, soprattutto in questa sessione, perché gli errori estivi pesano, ci sono troppi giocatori a questo punto in sovrannumero, si faticano a trovare un acquirente, e la cosa è quella, quindi non si può neanche sovraccaricare più di responsabilità, di avere troppi giocatori, poi occorre fare le scelte previste. È una situazione non chiaramente da facile da leggere, quindi vediamo. L'impressione sicura è che c'è tanto una fase di ripensamento, quindi vedremo a che conclusione arriveranno. Sì, proprio di ripensamento di quella strategia, di quella politica decisa in estate, ne parlavamo prima, non ha dato i frutti. Grazie Carlo. Ciao Carlo, ciao a tutti. Grazie Carlo Laudisa, ti leggiamo domani sulla Gazzetta dello Sport. Fabio da Milano, Fabio. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a te. Volevo fare una piccola considerazione. A me non sembra per niente che ieri sia stato un arbitraggio casalingo, perché tutte le volte che Lautaro era in attacco, il signor Rocchi, che arbitra, ve lo ricordo, dal 2006, dal famoso Parma-Lecce, è sempre stato sfortunato con l'Inter, i suoi arbitraggi. E il rigore voglio chiedere a Pardo, che ha commentato la partita. Mi spiace. Va bene, chiedo a lei, presidente. Mi dica se il rigore su Bastoni era così eclatante, perché non si parla di quello. Poi, no, ma ne abbiamo parlato prima, in Varanato, però solo. Perdonami Fabio. Sì, ecco, finisco solo una cosa. Poi, se nel primo tempo l'Inter faceva 3 gol, non c'era niente da dire. Quindi l'Atalanta, che è uno squadrone, perché è uno squadrone, ha meritato nel secondo tempo. Però non mi dite che Rocchi con l'Inter è un arbitro fortunato. E in quella situazione così concitata, la Gazzetta dello Sport, che è un giornale principe, ha scritto errore clamoroso, doveva addirittura essere espulso, sì, Lautaro. Ma come mai che non si pronuncia mai? Ho l'impressione, Fabio, ti sei fermato al titolo. Nel senso che dentro ha spiegato che l'errore, più che di Rocchi, è del VAR Irrati, perché da un paio di anni a questa parte c'è il VAR, Fabio, e quella roba lì, e non l'abbiamo detto anche noi adesso fuori dallo scherzo, abbiamo detto anche noi in campo quasi invisibile, perché è una situazione di mischia con l'arbitro coperto da 6-7 giocatori, oggi che c'è il VAR, dovrebbe esserci il VAR davanti al televisore per un occhio allenatissimo come quello di Errati, che è il varista della finale mondiale del 2018, doveva in qualche modo essere colto. No, ma chiaro, quello lì è proprio un episodio da VAR, anche perché è un intervento irrituale, cioè non succede mai che uno prenda con la mano la gamba di un avversario, è un intervento molto particolare, è chiaramente un errore da VAR, non si può dire che l'Inter ieri sera non sia stata fortunata con la squadra arbitrale, perché... Secondo me il rigore di Bastoni c'era, sì, anche se rigorino, e quell'altro, vabbè, è lì che si commenta da solo. Comunque, insomma, Rocchi qualcosina ha fatto dal 2006 a oggi, da quel Parmalece, ha fatto qualche finale. Qualcosina ha combinato. Insomma, la UEFA lo vorrebbe all'Europeo nel 2020, non ci andrà perché non è più internazionale, causa limiti d'età. Ci fermiamo e adesso abbiamo una bella mezz'ora per parlare di Roma-Juventus che vedremo insieme alle 20.45 questa sera. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Dove la scosta, scarica Ronaldo in area, Ronaldo, la Juve che ha il poker, tripletta di Ronaldo, 4-0, secondo tempo spaziale della Juve. Giocare contro Juventus non è una partita normale, no? io so che è una partita speciale e dobbiamo capire che è una partita dove non possiamo sbagliare. Concentrazione totale, non possiamo sbagliare. Ma per l'altro lato penso che è una partita in cui i giocatori sono molto motivati. Roma è una squadra che ha tanti giocatori tecnici, di grande gamba, di grande accelerazione, è una squadra che strappa nel momento in cui riconquista la palla, è una squadra che si può anche allungare, ma porta costantemente ad allungarsi anche gli avversari e può far venire fuori una partita con continui capovolgimenti di fronte, e in quei continui capovolgimenti la Roma diventa pericolosissima. Pellegrini cerca una traccia, la trova per Zaniolo che va dentro da Dzeko, la palla in porta, ce l'ha messa Edin Dzeko. Intanto prosegue Verona-Genoa, 21esimo minuto, 0-0 il parziale. Oggi ore 20.45, Olimpico di Roma, Juventus contro Roma. Vi leggo qualche statistica. Allora, la Juventus è stata campione d'inverno per 30 volte dal 1929, creazione del girone unico. Nelle ultime 14 occasioni in cui è accaduto, per 13 volte poi ha trasformato la stagione in scudetto. L'unica eccezione, ma eravamo tutti bambini, almeno tutti quelli che sono presenti in questo studio, è nel 1976, quando c'è stato poi, l'unica eccezione dal 1976, quando eravamo bambini, è stato nel 99-2000, con la rimonta della Lazio nelle ultime giornate, poi tutto quello che è successo. Questa sera all'Olimpico si gioca la Juventus la possibilità di essere campione d'inverno. Tutti dicono che non serve a niente. Poi però le statistiche, caro, raccontano una verità diversa. Sì, è appunto una suggestione statistica. Poi un conto è se diventi campione d'inverno con 6-7 punti di vantaggio nei confronti dei competitors, come è successo diverse volte. Lì non ti dico che è un verdetto, ma è un risultato indicativo. In questo caso mi sembra che sia per l'appunto solo un dato statistico e quasi scaramantico. Intanto la notizia è che la Juve potrebbe giocare con la stessa squadra della partita con il Cagliari, e sarebbe la prima volta dall'inizio del campionato che si vede una Juventus riproporre per due gare di fila la stessa formazione. Quindi Rabiot, Ramsey confermati? Sì, dovrebbe essere così. L'ultima incertezza, ma non è stata ancora sciolta, è sul ballottaggio tra Ramsey e Higuain. Sì, il problema non, cioè, a me non è dispiaciuta la Juventus nel secondo tempo con il Cagliari. Il problema è che la Roma in questo momento non è il Cagliari di questo momento. La Roma è una squadra molto più difficile, secondo me, per la Juventus, perché Sarri ha detto la verità in conferenza stampa: è una squadra che può metterti in difficoltà fisicamente, punto primo, e poi è una squadra che palleggia, una squadra che strappa le partite. Ora si tratta di capire se la Roma è quella un po' così, anzi brutta, vista col Torino, o se riesce a riannodare i fili con quello che abbiamo visto in precedenza. A me la squadra piace moltissimo. Sì, è un dubbio che anche Fonseca, saluto Giancarlo Dotto, ciao Giancarlo. Ciao a voi, ciao. Ciao. È un dubbio che anche Fonseca, ciao. Cioè quale Roma si troverà di fronte, prima ancora che quale Juve si troverà di fronte questa sera, se quella spenta con le piccole o se quella che comunque ha fatto sempre buone cose con le grandi. Giancarlo. Eccomi. Tu cosa ti aspetti? Io mi aspetto intanto un Fonseca non dubbioso, io lo vedo invece abbastanza certo dell'identità della squadra. Sai, questo bel tenebroso arriva a Roma come un oggetto abbastanza misterioso, casomai circonfuso da un alone di farsa per via dei suoi travestimenti. Invece scopriamo un personaggio completamente difforme che in poco tempo, in fondo, insomma, ha avuto il grande merito di portare a sé tutta la squadra, direi tutto il gruppo, e quale merito più grande per un allenatore che viene da un mondo esotico che non è il Portogallo, ma neanche l'Ucraina, è proprio il mondo esotico del personaggio Fonseca, abbastanza indecifrabile, no? Sembra un personaggio uscito da un romanzo. Ma sai che questo, Giancarlo, sai che questo secondo me è il suo grande merito, cioè più che tecnico, tattico, sì, emotivo, sì, perché... Non dimentichiamo che ha ereditato una situazione di una Roma in subbuglio, arrabbiata, che fa trading sul mercato, in cui vengono sbattute fuori le bandiere, eccetera, eccetera, con i tifosi abbastanza sul sentiero di guerra. Lui è riuscito a portare a questa squadra una sorta, io l'ho definito, di ironico distacco. E questo secondo me è il suo grande merito, anche nelle difficoltà, insomma, mai depresso. Assolutamente sì. Questa è la sua indecifrabilità, che è anche il suo fascino, che evidentemente poi sa comunicare molto bene ai giocatori. Lui veramente, io sono un amante della letteratura portoghese, che considero tra le più, forse la più grande al mondo, ma veramente è un personaggio uscito. Un personaggio fuori del tempo, uscito da un romanzo di Pessoa, piuttosto che di Jorge Maria Eka, di Queiroz. È veramente da questo punto di vista è forte l'analogia con quello che è successo con, ricorderete, con Rudy Garcia, che arrivò in un momento in cui la Roma era disastrata, forse ancora più che quella che ha trovato Fonseca. Il problema di Garcia, che evidentemente il suo fascino, il suo carisma non aveva durata, non aveva la permanenza, non aveva la capacità di tirare in mezzo nelle difficoltà, si è fatto tirare in mezzo dall'ambiente romano. Finché è stato straniero, bravo, questo sembra impermeabile, invece tutte quelle sembra e secondo me lo è davvero, ma sì, di mezzo c'è anche la vicenda societaria della Roma, ci scrive qualche amico, se per caso può influire sul rendimento della squadra, che dovrebbe però essere a sua volta impermeabile, visto che l'attuale proprietà è molto distante a livello di presenza su Roma. Potrebbe influire in maniera positiva, dato che a me sembra una buona notizia il passaggio di... Sì, però i passaggi raramente poi nell'immediato ti aiutano a essere concentrato. Non si sa se è una buona notizia, però certamente... quello che dicevamo prima di Fonseca è proprio la sua capacità di creare un micro universo con il suo gruppo, che mi sembra abbastanza impermeabile, e di volta in volta si è rafforzato, e soprattutto lo capisci dalla capacità di assorbire i colpi negativi, esatto. Come è stato sicuramente quello con il Torino. Io vengo da uno scontro telefonico durissimo con la Juventina Katia Ricciarelli, tra l'altro manco sapevo che fosse la quale sostiene che la Juve fare una passeggiata questa sera. Io credo che non sarà così, e credo soprattutto che la Roma non vedremo una Roma sicuramente toccata, colpita dal passaggio a vuoto con il Torino, come invece l'anno scorso abbiamo visto spesso la Roma devastata da qualunque minimo incidente, perché non c'era in panchina non c'era in panchina praticamente nessuno. Senti, invece Maurizio Sarri, a che personaggio della letteratura me lo paragoni? Sarri è un, lui amava perlomeno accostarsi molto a, a Bukowski, cioè questi personaggi un po' ruvidi che amano tenere, amano cancellare qualunque linea di confine tra l'orale e lo scritto, insomma. Credo che però lui sia profondamente mutato, abbia subito, e questo non me lo, come dire, mi impedisce poi di consegnarlo alla letteratura nel momento in cui si lascia permeare così dalle situazioni. È profondamente mutato nel momento in cui, non tanto per via della tuta, la cravatta, cioè nel momento in cui si cala già nel mondo Londra, ma nel mondo Juve è tutto un altro Sarri, quindi sono, insomma, d'accordo, anche qui sono molto d'accordo, si è, anche, la cosa, io questo lo trovo un valore, non, assolutamente, non un, guarda, sì, io non sto parlando di valori o disvalori, tu mi hai chiesto di sì, raccontare il mio Sarri, ecco, da questo punto di vista, certo, poi ha gestito comunque l'approccio con la Juventus con grande intelligenza, non con integralismo, con durezza, ma con grande duttilità, se vuoi. È un uomo che ha una bella testa, però da come si è rappresentato, e per chi magari ama certi eccessi che possono un po' sconfinare, deformare un po' la conformità del calcio, e quindi simpatizzare per lui, certo, un piccolo bisogno c'è stato, però è sicuramente un uomo che ha una bella testa, no? non c'è dubbio. Allora, abbiamo un minuto di traffico, chiedo un minuto di pazienza a Giancarlo Dotto, perché quando torniamo vorrei chiudere la chiacchierata parlando del 3. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Stiamo lavorando per tornare la Roma più forte. Io penso che in poco tempo si sta creando condizioni per la Roma nel futuro poter lottare contro questo tipo di squadra come Juventus e Inter. Allora, io ho 3-3 da proporre a Giancarlo Dotto, a Carlo Genta, a voi amici a casa. Intanto 0-0 Verona-Genoa, 32esimo del primo tempo, prima strepitosa parata di Perin su una altrettanto strepitosa sforbiciata al volo di Pessina. Allora, il primo 3, che si ricollega anche a quello che ha detto Fonseca, cioè l'ambizione di creare una Roma vincente, è la suggestione di mercato rimbalzata in questi giorni sui giornali. Zaniolo, Pellegrini, Bernardeschi, tre nomi coinvolti, non necessariamente uno per due o due per uno, però insomma con l'idea che la Juventus possa fare spesa a Roma, sponda giallorossa, nei prossimi mesi. Io credo che se il discorso di Fonseca ha un senso, questa cosa non può accadere. Giancarlo? Beh, sarei molto sbalordito che accadesse, perché intanto perché il cambio di gestione, dato quello che si dice, dato quello che filtra, sembra anche anticipare un cambio anche di politica rispetto a quello che è stato, sono stati gli anni di Pallotta, cioè quello di appunto vendere, fare cassa, fare plusvalenza, eccetera. In questo momento Pellegrini, che tra l'altro è amatissimo e ambitissimo della Juve ormai da molto tempo, Zaniolo, sono i due giocatori. Pellegrini ormai consacrato, ma Zaniolo proprio stasera, anche se non gioca al meglio, bisogna capire che negli anni la partita, la vera rivalità, ancora più che il derby, il solito derby, è stata quella tra quella Roma-Juventus. Spesso la Juventus, a partire dalla Juventus, hanno romanizzato, hanno dato il marchio dell'essere romanista a molti giocatori, a molti allenatori, per imprese compiute all'interno della partita. Quindi probabilmente Zaniolo stasera, se dovesse lasciare un segno importante in questa partita, credo che sarebbe veramente complicato allontanarlo. Sì, però vorrei chiederti allora come vivi questa così amicizia che esiste di fatto sul mercato, questa complicità nel senso buono del termine tra Roma e Juventus, che di recente, come nell'ultima estate, hanno fatto affari insieme. Allora, tu sicuramente so che posso contare la tua solidarietà, di sapere quanto io sia diviso in questo momento tra il parlante oggettivo e il parlante, diciamo così, simpatizzante. Allora a quale dei due devo lasciare briglia, insomma, il simpatizzante dice che se la Roma vuole definitivamente, chiaramente quando dico simpatizzante uso un eufemismo pesante, deve assolutamente rinunciare, se non vuole completamente tagliare il suo cordone, quel che resta il suo cordone ombelicale con il ventre, con la pancia del mondo giallorosso, non può fare questo, non può farlo almeno nei prossimi 3-4 anni e non può farlo con la Juventus. Lo ha fatto in passato, ma il cambio di proprietà e soprattutto un allenatore che è diventato veramente un'icona o quasi, e che si pronuncia in questo modo, non possono essere così clamorosamente traditi o smentiti, insomma. Quindi se poi invece mi parli, se deve parlare l'altro, malvolentieri, è un po' strozzato in gola. Certo, le politiche societarie hanno unito moltissimo questi due club, ma sarebbe ora di slegare il nodo. Esatto, sarebbe ora di slegarlo o comunque di renderlo. Perché il tifoso romanista ha mille difetti, cioè, ma sicuramente è un tifoso che si nutre molto di sconfitte, e quindi per una perfetta equazione si nutre molto anche di sogni. Se cominciamo ad amputare sistematicamente, io ancora sono in lutto torno a parlare l'altro adesso, sono ancora in lutto per i Salah, per gli Alisson, le considero ferite non rimarginabili, insomma, anche per quello che si è visto dopo, per quello che è accaduto dopo. Allora, il secondo 3 è quello della difesa della Roma, che questa sera forse gioca a 3. È un segno di forza, un segno di debolezza? Secondo me non giocherà mai a 3 e eviterei di commentarlo, per quanto sono sicuro che non sarà così. E il terzo 3 è quello del tridente della Juve, che non è annunciato, e io credo, insomma, significa probabilmente che Sarri ha verificato sul campo la difficoltà a proporlo con continuità, però è un tema. Non credo nemmeno nel tridente della Juve, proprio per i motivi che tu dicevi, e quindi vedremo davanti Dybala e Ronaldo. Il problema della Juve è che è uno solo, intanto che possiamo ormai dire che il mercato è stato ampiamente fallato, e due, che Sarri deve decidere cosa fare di sé nel mondo Juve, cioè lui ha capito cosa fare dal punto di vista dello stile, ma dal punto di vista della gestione tecnica, mentre Allegri, che è un po' la Maria De Filippi del calcio, cioè è il genio della sottrazione, cioè lui lascia campo alla qualità dei calciatori. Sarri è uno che ha delle idee calcistiche molto precise, molto presenti, e cerca di imporle. Al momento però la sua Juve funziona ancora esclusivamente per i colpi individuali, e casomai lui rischia di essere un impedimento. Quindi però l'uomo è intelligente e quindi sa essere pragmatico con questo, quindi giocherà con le due punte e cercherà di portare a casa questa partita alla fine con i colpi dei suoi campioni. Grazie Giancarlo. Ciao. A voi, ciao. Ciao. Grazie Giancarlo Dotto. 3x2 fa 6, e sarebbero 6 le partite consecutive in gol in campionato se Ronaldo dovesse segnare questa sera, come nel Manchester United, ma il suo record è 11 con il Real Madrid nel 2014. 0-0 sempre tra Verona e Genoa, 37 minuti, Roberto da Treviso, vai. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io però volevo fare un intervento sull'Atalanta. Sì, è ancora possibile. No, allora, io amo andare contro il pensiero prevalente e volevo sottoporre queste considerazioni. Mi chiedo, ma come mai a nessuno viene in mente di analizzare a fondo il perché tutti i giocatori che vanno via dall'Atalanta o si rompono Caldara con Spinazzola, oppure sono dei flop Gagliardini, Grassi? Non c'è qualcosa che non va in questa Atalanta? Secondo me non tutti i calciatori sono dei flop che vanno via. È vero che fanno fatica a mantenere quel tipo di rendimento. Però è una cioè ci sono delle, ci non sono ce delle uno suggestioni. Che va, è un'altra suggestione che vi do un po' polemica è: non vorrei sbagliarmi, ma credo che il preparatore atletico dell'Atalanta è lo stesso della Juve di oggi, degli anni di Agricola, quindi, eccetera, allora Roberto, eccetera. Così usciamo un attimo da questa zona d'ombra, quindi tu sostieni che l'Atalanta corre a 1000 all'ora per ragioni che sono facilmente intuibili, Va bene, tu l'hai detto, io credo che sia completamente irricevibile questa tesi, mentre è molto più interessante la tesi di una squadra costruita intorno a un calcio fatto anche di fisico ma anche di un modo di giocare che poi è difficilmente replicabile, certo, altrove, certo, ma non così. Tutti sono stati dei flop, certo, così. No, non perché Gagliardini non è stato un flop, perché non sempre i calciatori usciti dall'Atalanta sono stati un flop. Poi su tutto il resto, se hai notizie, ti presenti alla Procura Federale. Claudio da Bologna. Claudio? Sì, eccomi qua, ci vai. Sono. Eccoci. Buonasera e grazie per avermi convocati. Due domande. Vai. Se pensate che la Lazio possa essere una pretendente allo scudetto, e la seconda cosa, stasera chi vedete, diciamo, avvantaggiato nel match Roma-Juventus. Poi volevo dire un'ultima cosa. Sì. Volevo un attimo allacciarmi al discorso di dell'intervento poco fa, dal confronto tra Allegri e Sarri. Io però vorrei dire solamente una cosa, che Allegri non ha avuto, secondo me, la capacità di valorizzare un giocatore come Paolo Dybala. Hai ragione, questo io credo sia il capo d'accusa, se si vuole aprire un processo d'Allegri a proposito dell'anno scorso. Il Dybala visto quest'anno è così anche perché è stato rimesso a giocare in una maniera più funzionale al suo calcio, posto che poi Dybala era sul mercato fino alle ultime ore della fine di agosto. Alle volte il calcio insegue anche dei percorsi che sono impossibili da pronosticare. Su questa sera il mio pronostico è un pareggio. Anche il mio, pareggio anche il mio, però Allegri anche quello che ha introdotto Dybala ad alto livello quando è arrivata la Juventus. Quindi anche questa accusa, secondo me, è rivedibile. Dybala è stato un po' vittima probabilmente dei nuovi equilibri portati a Cristiano Ronaldo e Allegri non è riuscito a risolvere quel problema lì. Allora, noi ci fermiamo, non è ancora finito il primo tempo di Verona-Genoa, 41esimo minuto 0-0, iniziato in ritardo, ricordiamo, perché c'era un errore nella tracciatura delle righe dello stadio Bentegodi, però insomma seguirete tutto, compreso Roma-Juventus, all'interno dei nostri notiziari. Io ringrazio te Carlo Genta. A te Giovanni, alla prossima. Ringrazio Edoardo Lavezzari, autore di questa puntata, Paolo Corleoni e Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia. Tutti i convocati torna domani dopo le 14, mentre noi ci sentiamo in diretta con tutti i convocati weekend domenica alle 17. Come tradizione sul gol del Genoa con Sanabria, 41esimo minuto, Verona 0, Genoa 1. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!